oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. La Chiesa deve pagare l'ICI senza autoesenzioni improprie, che sono scandalo e peccato. Così il presidente della CEI nella prolusione di lunedì dopo settimane di polemiche. A proposito delle tasse, Angelo Bagnasco così ha parlato. Evadere le tasse è peccato. In tema di ICI, Bagnasco ha detto che la Chiesa non chiede trattamenti particolari, ma semplicemente di avere applicati a sé, per gli immobili utilizzati per servizi, le norme che regolano il no profit. Secondo alcune stime, anche se un calcolo preciso non è stato mai effettuato, il minor gettito annuale derivante dal mancato pagamento dell'ICI da parte della Chiesa Cattolica ammonterebbe ad alcune centinaia di milioni di euro l'anno, forse un miliardo. Marco Tarquinio è il direttore dell'Avvenire. Più volte in queste settimane di polemica è intervenuto sull'argomento con editoriali. Nel nostro paese ci sono due dati che colpiscono molto in questo momento. Da una parte il dato dell'evasione fiscale, che per la dottrina cattolica è un peccato. Basta conoscere il catechismo della Chiesa Cattolica, non è che il Cardinal Bagnasco, presidente della CEI, o altri esponenti della Chiesa che siano espressi sul punto abbiano inventato o innovato sulla questione. L'altro grande dato è che sono stati tagliati in questi anni progressivamente 2/3 dei trasferimenti dello Stato centrale agli enti locali per l'erogazione di servizi, e questo significa una decurtazione potente del sistema di welfare diffuso. Bagnasco si è soffermato sull'ICI, viste le tante polemiche dei mesi scorsi dalla formazione del governo Monti. Ma tu stesso avevi pubblicato il famoso editoriale, poi ripubblicato, intitolato La vergogna dell'ICI. Sì. Le cose stanno molto semplicemente che la legge prevede una serie di agevolazioni e o di esenzioni per una pluralità di soggetti, tra i quali compresa anche la Chiesa Cattolica o realtà che sono cattolicamente ispirate. Nessun privilegio specifico per la Chiesa Cattolica, questo è il primo punto. Il secondo punto è che le attività che sono in condizione di ricevere questo trattamento speciale dallo Stato lo hanno semplicemente perché svolgono un servizio. Io prima accennavo al fatto che c'è un taglio impressionante delle risorse a disposizione del welfare diffuso nel nostro paese, che viene coperto questo sbilancio che si è creato per le politiche di rigore che devono essere inevitabilmente messe in campo proprio da iniziative che partono dalla società e, diciamo così, dalla comunità ecclesiale. Noi avevamo scritto con chiarezza che se qualcuno non rispettava la legge su questi punti e accampava pretese ad agevolazioni o addirittura esenzioni senza averne titolo, andava sanzionato, e che gli enti locali hanno i mezzi per farlo, per sanzionare, è accaduto, ma non si può generalizzare, attribuire all'errore di alcuni un errore di sistema. Ora c'è Don Willy Volonté, noi ci risentiamo domenica prossima. All'orizzonte della Chiesa sta la prossima assemblea dei Vescovi con a tema la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Riproporre con forza il messaggio cristiano significa attivare la comunicazione alle persone. Ma il tema che Papa Benedetto propone al mondo cattolico per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali sembrerebbe contrastare la necessità della comunicazione della fede, che secondo il monito del Vangelo occorrerebbe gridare sopra i tetti quello che viene suggerito nell'interiorità del cuore. Infatti il tema proposto ha il valore del silenzio. Il messaggio del Papa ha come titolo Silenzio e parola, un cammino di evangelizzazione. Ma nel pensiero di Papa Benedetto il silenzio non è presentato come una forma di contrapposizione alla parola in una società caratterizzata dal flusso inarrestabile della comunicazione, bensì come un necessario elemento di integrazione. Il silenzio, infatti, proprio perché suggerisce l'equilibrata valutazione della realtà, la dimensione dell'approfondimento interiore della vita sta prima della parola, se questa deve essere con spessore e con valore. Favorire il silenzio significa sottrarre la parola al banale chiacchiericcio e pettegolezzo. La frequentazione sempre più numerosa da parte di laici, di monasteri e conventi, come alternativa alle chiassose dispersive vacanze estive, è significativa per il recupero di questa dimensione del silenzio indispensabile per lo spirito. Se gli operatori di comunicazione sociale preti compresi, valorizzassero di più il silenzio, anche la parola giungerebbe ai nostri orecchi salubre, corroborante e umanizzante.